Questa mi sembra una vicenda italiana, nel senso che, come spesso accade in questo paese, queste storie sono caratterizzate da buchi, da misteri, da omissioni, da depistaggi, da falsi allarmi piuttosto che false piste. E così è stato fin dall'inizio. Questo rapimento è sicuramente diverso dagli altri, questo non è un giudizio mio, è un giudizio che ha dato il vice ministro degli interni iracheno, che ha descritto i rapitori come esperti in cose militari, in disciplina militare. Poi non c'è stato niente, non c'è nessuna prova di dove siano, di come stiano, non si capisce nemmeno perché siano state rapite, perché normalmente questi rapimenti colpiscono o in persone legate a imprese che sono lì a lavorare con l'autorità provvisoria, o persone che lavorano direttamente per l'autorità provvisoria. In questo caso hanno colpito invece persone che erano lì per aiutare gli iracheni, per dare una mano, e quindi anche questo è abbastanza misterioso. In più qui non si fa appunto altro che ricevere strane notizie, strane veline. Chi dice che i servizi fanno filtrare prospettive positive, contatti avviati, poi invece si smentiscono e si dice no, non c'è niente. Insomma, è una classica vicenda italiana, come purtroppo ne abbiamo viste tante. In queste situazioni gli unici autorizzati a fare delle cose siano quelli che ricoprono ruoli istituzionali, quelli che lo fanno per mestiere. A me per esempio è successa un'altra cosa: quando erano stati rapiti gli altri italiani, io ero andato in Iraq con Emergency per provare a vedere se si trovava un altro canale, ma non era stata una nostra iniziativa, ci era stato richiesto in qualche modo e per vie non dirette ovviamente, da chi pensavamo avesse in mano gli ostaggi, e quindi abbiamo fatto questo tentativo perché ci era stato chiesto da lì. In questo caso non c'è nessuna richiesta, non si capisce chi ce li ha, non si capisce che fine abbiano fatto. Credo che gli unici autorizzati a fare delle cose dal punto di vista operativo siano le istituzioni. Altro è come dire, fare una riflessione generale su questa vicenda, ma che non riguarda solamente questo caso, riguarda in generale come dire, il ruolo che l'Italia ha in questa vicenda, che è un ruolo di partecipazione a un'occupazione illegale di un paese che, per quanto come dire, il suo dittatore, presidente, chiamiamolo come vogliamo, perché poi anche sul chiamare dittatore o presidente a seconda del comodo si sceglie il nome più opportuno. Nel caso del Pakistan per esempio, una volta era il dittatore Musharraf, adesso è diventato il presidente, ma indipendentemente dai giudizi che si potevano dare sul potere politico in Iraq, quel che è certo è che l'invasione è stata illegale. Questo lo dice l'ONU, non lo dicono i sovversivi o i pacifisti assoluti, lo dicono le Nazioni Unite. Allora, altro è una riflessione su questo tema. E io credo che l'unica strada possibile per uscire da questa situazione sia quella di ritirare le truppe e eventualmente sostituirle con delle truppe di questo caso di peacekeeping, che però non c'entrino nulla con quelle che hanno invaso in modo illegale quel paese. Maso Notarianni per Peace Reporter.